Alibaba e i 40 ladroni, seconda parte. E mostrò al marito meravigliato una moneta d'oro che era rimasta attaccata al fondo grazie allo strato di grasso che vi era stato spalmato prima. Cassim non si sentì affatto felice per la fortuna toccata al fratello. Anzi, sentì subito nel cuore una gelosia fortissima che non lo fece dormire per tutta la notte. Appena si fece giorno, si recò alla casa di Alibaba. Alibaba, tu sei un mentitore e un falso fratello. Vivi come un miserabile e hai tanto oro da misurarlo come fosse grano. Fratello mio, io non so veramente di che cosa vuoi parlare. Non fare il furbo, riprese Cassim, tirando fuori la moneta d'oro. Questa è rimasta attaccata sul fondo della misura che mia moglie ha prestato alla tua. Alibaba comprese che era inutile continuare a mentire e con la massima sincerità raccontò tutto al fratello. Anzi, si offrì di accompagnarlo. Ma Cassim rifiutò sgarbatamente, rispondendo che preferiva andare da solo. Infatti, allo spuntare del giorno, Cassim uscì dalla città portando con sé 10 muli robusti, carichi di grandi casse che il mercante si proponeva di riempire in quel primo viaggio. Arrivò alla foresta. Si diresse verso i cespugli che il fratello gli aveva descritto. Trovò la parete di roccia e gridò: «Sesamo! Apriti!» La porta si aprì e Cassim si trovò nell'interno della caverna, mentre la porta si richiudeva senza rumore alle sue spalle. Da buon mercante si mise a esaminare le stoffe, i tappeti e tutti gli oggetti preziosi che stavano ammucchiati vicino alle pareti. Quindi immerse le mani nell'oro e nell'argento, pieno di gioia e di entusiasmo. Poi si ricordò delle casse portate dai muli e volle uscire per cominciare il carico. «Apriti!» ebbe un bel gridare. Piangere, minacciare, invocare. La porta restava chiusa. La frase magica era completamente sfuggita dalla sua mente. E più tentava di ricordarla, più la sua memoria si imbrogliava. Alla fine, senza uno sguardo per le ricchezze che lo circondavano, Cassim si gettò a terra piangendo. Verso mezzogiorno, i ladroni tornarono alla loro grotta. Videro i 10 muli carichi di casse che, spaventati dall'arrivo dei cavalieri, si diedero alla fuga per la foresta. Il capo sfoderò la spada e si diresse verso la parete di roccia. «Sesamo, apriti!» La porta si aprì e Cassim si precipitò fuori. Ma non poté fare un passo di più perché le spade dei ladroni caddero su di lui e lo stesero a terra morto. Entrati nella grotta, i ladroni tennero consiglio. Non capivano come quello sconosciuto fosse potuto entrare nel loro nascondiglio. Nessuno, all'infuori di loro, conosceva e sapeva le parole magiche necessarie per far aprire e chiudere la porta. Decisero alla fine di lasciare il corpo dello sconosciuto nell'interno della grotta e di rimanere poi per qualche tempo lontani da quel luogo, per evitare spiacevoli sorprese. Così fecero, e ben presto nella foresta ritornò il silenzio. Nel frattempo, la moglie di Cassim era in pena, non vedendo ritornare il marito. Alla fine si decise e andò da Alibaba. «Tu sai che tuo fratello è andato nella foresta e non è ancora tornato? Io sono in grande pena e temo che gli sia accaduto qualche cosa di terribile!» Alibaba era ancora offeso perché il fratello non lo aveva voluto con sé. Ma quando fu passato anche tutto il giorno dopo e di Cassim non si ebbe alcuna notizia, allora il boscaiolo decise di andare a vedere che cosa fosse accaduto. Prese, come al solito, i suoi 3 asinelli e si diresse verso la foresta. Arrivato davanti alla roccia, si stupì di non vedere traccia dei 10 muli che Cassim aveva portato con sé. Disse le parole magiche e la porta si aprì. La prima cosa che il poveretto vide fu proprio il corpo di suo fratello, straziato da 1000 ferite. Non ci volle molto tempo perché Ali Baba comprendesse quello che doveva essere successo nella grotta. Sollevò il corpo del fratello, lo avvolse in un prezioso tappeto e lo caricò su uno degli asinelli, allontanandosi più presto che poté. Arrivato in città, andò a bussare alla casa della cognata. La porta gli fu aperta da una bella e giovane schiava, Morgiana, che aveva fama di essere molto astuta e coraggiosa. «Senti, Morgiana», disse Ali Baba, «la prima cosa che ti raccomando è il segreto più assoluto. Qui c'è il corpo di mio fratello Kassim. È importante farlo seppellire come se fosse morto di morte naturale. Nessuno dovrà mai sapere la verità o tutte le nostre vite saranno in pericolo». Lasciando la cognata a piangere sulla triste sorte del marito, Ali Baba, aiutato da Morgiana, trasportò il corpo di Kassim nella sua stanza, adagiandolo sul letto. Subito dopo, Morgiana uscì per andare a comprare delle medicine dallo speziale più vicino. «Ahimè», si lamentava la bella schiava, «temo che il mio povero padrone non avrà neanche il tempo di prenderle tutte». Così fece anche il giorno dopo, lamentando che la malattia progrediva di ora in ora. Intanto, Ali Baba e la moglie traversavano più volte al giorno la strada per andare a domandare notizie della salute di Kassim, in modo che tutti i vicini vedessero e sentissero ogni cosa. Alla fine, i lamenti della moglie annunciarono a tutto il vicinato che Kassim era morto. Appena fu giorno, Morgiana uscì di casa e si diresse verso la bottega di un vecchissimo sarto chiamato Baba Mustafa. «Baba Mustafa, vuoi guadagnare una moneta d'oro?» gli domandò la schiava. «Buona idea, figlia mia», rispose il vecchio. «Di che si tratta?» «Io sono pronto a tutto. Si tratta di fare per me un onesto lavoro, ma per arrivare sul posto devi lasciarti bendare gli occhi». Baba Mustafa si lasciò bendare e condurre da Morgiana. Arrivarono fino alla porta secondaria della casa di Kassim. Qui la schiava tolse la benda dagli occhi del vecchio e lo condusse nella stanza del morto. «Baba Mustafa», disse Morgiana, «ti ho portato fin qui perché tu possa fargli il vestito funebre. Non perdere tempo e mettiti al lavoro senza far domande. Quando avrai terminato, io ti darò un'altra moneta d'oro». Fine della seconda parte. Ali Baba e i 40 ladroni tornano nella prossima puntata.